Maia e Nicola Locci dalla Sardegna, Tabula Rasa, Moschita de Miramar dall'Olanda, Mariano Virdia in quel di Berlino, Gianluca Becuzzi, Francesco Cornello, Laura Spirit Crusher, anche lei da Roma, Alessandra qui da Roma, Lucia Callà Cagliazza in arte Lupsi, chi ci sta ascoltando da Udine. E poi Doriana da Taranto, Raffaella da queste parti, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Alberto Clipper, Rosa Lavita, Cecilia Miradoli di Pindar, Simone Scalisi di Audio Chaos. Scorrendo ancora il medico della peste, progetto industrial. Alicia Sardina, anche lei da Roma, Jess Gallagher dalla Sicilia, Valerio Michetti della Grazia Obliqua e Fate to Grace. Flavio Derbecante, Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster e DB Pit. Ricordo anche la possibilità di sottoscrivere per questa emittente, si può andare sul sito e leggere le varie modalità che sono sia il conto corrente postale 618040.01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Vile Volsci 56 00185, Roma, ma ci sono anche le modalità diciamo più elettroniche. Iniziamo or dunque con l'andarci ad ascoltare di nuovo un ulteriore passaggio, ovviamente un'altra traccia, dell'ultimo lavoro di Rise on Death. Il monumentale doppio CD Demonum Demonacum. Rise on Death è uno dei maggiori esponenti del dark ambient, per i più diciamo addentro alla materia, un artista, Peter Anderson, svedese, che non ha proprio bisogno di ulteriore dimostrazione. Allievo diretto della tradizione di Brian Lassmord, anche se poi nel suo caso il tutto ha assunto una dimensione ancora più gothic. Allora, questa sera ci andiamo ad ascoltare Inside the Enantiodromia. Thank you. Ritorna dunque Raison d'être con questo Demonum Demoniacum, doppio CD del 2021 attraverso lo Cyclic Low, storica realtà franco-canadese. Molti sapranno il suo passato e punto di riferimento della vecchia Cold Meat Industry, peraltro rinata grazie sempre a Roger Karmanick. Buonasera a Jean-Claude Berthaud, Like Wake, proprio l'ambient qui di Roma. Enrico Ponzoni di Sokushi Butsu Project, Giulia qui a Roma. Qualcosa di ascetico, di naturalmente spettrale, ma anche con del tramestio in sottofondo in questa traccia di 8 minuti e mezzo per quanto riguarda Raison d'être, che secondo me ha sempre un qualcosa in più rispetto ai tantissimi epigoni che hanno seguito le sue tracce. Ed ora lasciamo Raison d'être, arriviamo qui in Italia e ci andiamo un po' a dedicare all'ultima fatica di Lucia Cagliazza, in arte Lupsi, ottima artista nonché anche fedelissima ascoltatrice di questi spazi di Radio Onda Rossa. Allora, di lei è uscito questo lavoro dal nome Drops on Sound Embryos, una bellissima copertina, come dire, molto acquatica, come molto acquatica o molto acquatiche sono le sensazioni che mi ha donato questo album decisamente fluido, astratto, evanescente, con questi preziosi passaggi di chitarra trattata, specialità proprio della nostra Lucia Cagliazza. In sede di cura del suono c'è l'onnipresente Raffaele Pezzella. E dunque ci ascoltiamo Hidden Angels e Rain of Fairy Tears. Lavoro di spessore, un ottimo ritorno per quanto riguarda Loops e Lucia Cagliazza. Drops on Sound the Embryos. La giusta inquietudine e oscurità, le strutture armoniche che mi hanno anche fatto ricordare dei rimandi alla musica contemporanea di Karlheinz Stockhausen e Luigi Nono, riveduti e corretti però con una sensibilità più affine al krautrock e alla psichedelia. Quindi grande conferma per Lupsi, e invito anche ad andarsi a conoscere anche i vecchi lavori presenti sul suo profilo Bandcamp. Vero e proprio viaggio psichico. E adesso Raffaele Pezzella invece lo andiamo a menzionare nel caso di questa compilation dedicata a Lucio Fulci, che abbiamo già apprezzato nelle scorse puntate di Prove Tecniche di trasmissione. Vari artisti, come i più sanno, compongono questo music inspired by the Lucio Fulci Death Trilogy. Nare Sheran, Mariolino Stancati, Club, Progetto No Name, Duo Serpe e anche Bad Girl, e di lui ci ascoltiamo City of Dead. eccellente contributo di Bad Girl con questa City on Dead per quanto riguarda questo omaggio a Lucio Fulci, artisti che ho menzionato prima di questo brano, che si sono impegnati a concepire una eventuale e futuribile ipotetica colonna sonora per i vari film di Lucio Fulci. E naturalmente l'album è arricchito da vari campionamenti estratti proprio dalle opere di questo maestro dell'horror. Tutti i 14 episodi sono di notevole livello veramente, compresa questa City of Dead. Intanto vado a salutare Massimo Mascheroni di Others e Tsukushi Butsu Project, insieme al già salutato Enrico Ponzoni. E mentre vado a salutare di nuovo Nicola Locci, Hexagonal, Stigmate, e dire che a breve sentiremo anche il suo nuovo lavoro insieme a Noise Cluster. Noi andiamo avanti e ce ne andiamo in Serbia con gli Autopsia. E quindi continua il mio viaggio nella vecchia discografia di Autopsia. Questa sera tocca un, diciamo, EP abbastanza sviluppato, soprattutto nella ristampa del 1995, The Silence of the Lamb, Wald Symphony, di ben 9 tracce. Il martial industriale, la solennità, l'essere così epico, una caratteristica veramente fondamentale di Autopsia. E quindi ci ascoltiamo Gebet ein und zwei e Welt ist von Ers. pathos e la potenza sinfonica di The Silence of the Lamb, Vals Sinfonie di Autopsia, Radovan Milinkovic, in questa circostanza anche supportato da Dammerung Orchestra, presumo una vera e propria orchestra di fiati, violini, eccetera, eccetera. Convengo con il fatto che anche Autopsia, dando retta anche alla osservazione di Simona, della potenzialità horror anche della musica di Autopsia, almeno in parte della sua discografia. Sicuramente nelle tracce che ci siamo ascoltati fino ad ora ci poteva essere un afflato, diciamo, horror. Questa che stiamo sentendo magari meno, è più medievaleggiante. Saluto Vurnus Island, storico progetto industrial dal Piemonte. E a proposito di storia, eccoci qua, Marcio Gronge. Veramente un pezzo di storia della musica contemporanea, a partire dagli anni Ottanta con i vecchi Gronge, poi Mahatma Gandhi e anche questa sua avventura solista che porta ovviamente il suo stesso nome. Ci andremo un po' a perdere in obsolescenze programmate, una ventina di quadretti elettronici di psichedelia applicata all'elettronica. All'essere visionario così di questo artista romano. Ed è bello come non c'entri assolutamente nulla ciò che andremo ad ascoltare con questo che sta andando sotto la voce, con questi Autopsia. Quindi cambio radicale, iniziamo con Mascherine, pezzo tagliato male e ritmo cerebrale di Gabbiano Pollaiato. Uno dei talenti più visionari e creativi da tanti anni a questa parte, Marcio Gronge. Non perde un colpo, sempre sul pezzo, come si suol dire. La conferma viene anche da queste obsolescenze programmate. E il concetto di obsolescenza lo si può anche trovare, insieme ad altre ficcanti considerazioni, nel profilo Bandcamp della Efedrina Net Label, con il quale è uscito questo disco di Marcio Gronge, uno dei migliori del appena terminato 2021. In un'intervista mi sembra di ricordare di aver letto come questo disco sia stato concepito in qualche notte dominata dall'insonnia, e quindi una notte che ha portato decisamente consiglio e creazione al buon Marcio, che saluto caldamente. Obsolescenze programmate, naturalmente ce ne ascolteremo altri 3-4 episodi la prossima settimana. Con lui abbiamo operato una sferzata un po' più elettronica a programma, una sferzata che continua anche con il pathos industriale di SPK, e stasera concludiamo il viaggio con From Science to Ritual, un viaggio live nel 1982 che ha toccato anche Roma attraverso un live alla Sala Borromini. Allora cassetta e anche un ristampato album che finiva con Serenace e Angst Pop.